24 mattino. Cari ascoltatori, a questa puntata specialissima di 24 mattino e ben apportati, soprattutto di buon mattino, diciamo, anche per me è un fuso un po' diverso, ma sono qui appunto oggi per parlare con voi, direttamente con voi e con gli ospiti che saluteremo man mano tra poco, di donne e di uomini, o meglio della situazione attuale dei rapporti tra i sessi. A che punto sono gli stereotipi, cioè quei modelli di comportamento un po' schematizzati, tradizionali, che in molte, ovviamente, insomma, che la cultura dominante ha in mente rispetto a cosa devono essere, a cosa devono fare le donne, a cosa devono essere, a cosa devono fare gli uomini. C'è questo parte, diciamo, da un rapporto dell'Istat che è stato pubblicato proprio in questi giorni, a dicembre, che rileva degli aspetti contrastanti. Da una parte, dice questo rapporto dell'Istat, che sono stati superati i tradizionali cliché tra donne e uomini, che in realtà più del 70% delle persone pensa che donne e uomini sono pari, che i ruoli anche all'interno della famiglia devono essere giocati in modo simmetrico, cioè distribuiti equamente tra donne e uomini. E poi ci sono invece, soprattutto al sud, un po' delle resistenze a pensare che ci sia una parità assoluta tra donne e uomini, e che è meglio che le donne continuino nei ruoli tradizionali, soprattutto appunto domestici, relativi alla casa e alla famiglia, e gli uomini soprattutto a portare, come si dice, il pane a casa. Questo rapporto dell'Istat, presentato proprio pochi giorni fa, si intitola Stereotipi, rinunce e discriminazioni, che, scusate, riguardano soprattutto le donne, di genere, Stereotipi, rinunce e discriminazioni di genere, che è stato presentato davanti alla viceministro del lavoro con la delega alle pari opportunità, che come dipartimento e come ministero pare non esista più, Maria Cecilia Guerra. Per voi il numero è sempre aperto, naturalmente, da subito, 800 24 00 24, per dire che cosa ne pensate appunto dei ruoli di uomini e donne in generale, soprattutto per quanto riguarda l'attualità. E adesso comincio anche col salutare le prime due ospiti, che sono Isabella Rauti. Buongiorno Isabella Rauti. Già presto, quindi evidentemente il telefono ancora non è sveglissimo, Isabella Rauti, mentre c'è Chiara Saraceno, che non ha bisogno di presentazioni, notissima sociologa. Ciao Chiara. Buongiorno, ciao. Cara Chiara, incominciamo appunto col dire, a parte questo che dice l'Istat, no? Che dice gli italiani sono in realtà più aperti sui ruoli donne e uomini, poi man mano scenderò nelle percentuali, ne ho qui diverse che mi sono appuntata. Per esempio, quello più significativo riguarda appunto il fatto che più del 70%, adesso mi vado a cercare la percentuale che era un po' oltre il 70%, eccolo qua, passi avanti si evincono dal fatto che il 77,5% della popolazione non è d'accordo, per esempio, nel ritenere che l'uomo debba prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia e poi a scendere. Secondo te è un, per quel poco che al momento ho anticipato, un quadro fondato, reale, di quelle che sono la percezione anche dei ruoli, degli schemi tra donne e uomini, oppure no, in Italia? Sì, certamente, soprattutto per quanto riguarda la famiglia, cioè gli uomini sanno benissimo che le decisioni principali vengono prese dalle donne, perché gliele delegano anche, quindi, però poi dopo, se si guarda le decisioni rispetto a dove si va a vivere, perché bisogna il lavoro di lui o di lei sta da un'altra parte, poi si vede che quelle decisioni in realtà sono molto più asimmetriche. Un conto è decidere come educare i bambini, un conto cosa si mangia, eccetera, come si arreda la casa, e un conto è decidere dove si vive, perché bisogna valorizzare il lavoro dell'uno e dell'altro. Allora, in questo caso, spesso quello della donna è subordinato a quello dell'uomo. Però direi che da questa ricerca viene fuori che certamente l'immagine ideale della parità è abbastanza diffusa, sia pure con differenze tra classi sociali, età, eccetera, più tra i giovani che tra i più anziani, più al centro-nord che al sud, eccetera. però poi la pratica rimane ancora, se non asimmetrica, fondata su una divisione del lavoro e anche delle competenze, perché da questa indagine viene fuori che sì, le donne sono altrettanto brave degli uomini a fare dirigenti, addirittura come politiche, sarebbero meravigliosamente uguali, se non meglio. Però poi dopo si pensa che però gli uomini non sono molto adatti a fare i lavori domestici, e allora è chiaro che se non sono molto adatti, lo pensano sia gli uomini che le donne, allora poi lei ne fa di più, salvo poi dichiarare che è sovraccaricata, no? O salvo, e allora però, dato che gli uomini non sono tanto adatti, allora poi non sembra così ingiusta la divisione del lavoro domestico. Quindi l'immagine generale è questa, dici, insomma, nei buoni propositi, nell'idea, un'idea un po' galleggiante ma senza delle basi, delle fondamenta solide, dici? Delle perché poi nel concreto. Anche perché, sì, perché poi dopo appunto si dice che le donne sono più sacrificate gli uomini rispetto al lavoro, dalle loro responsabilità familiari, cioè da un lato si dice va benissimo così, perché oltre il 70% dice che la divisione del lavoro che ha in famiglia col proprio marito o con la propria moglie va bene, è equa, è giusta, sì. Poi dopo si dice hai avuto dei problemi sul lavoro rispetto alle responsabilità familiari, sono le donne che lo dicono. Allora... Senti, tra poco sottolineeremo ulteriormente questi aspetti, intanto ci ha raggiunto Isabella Rauti che tra poco saluto, però abbiamo la viabilità, quindi aggiorniamo, già a quest'ora c'è gente che si muove, che magari va verso il proprio fine anno, capodanno, chi ritorna, e poi abbiamo tempo fino alle 9:30 per parlare di questo argomento. Per le ascoltatrici e gli ascoltatori, lo ripeto, il numero verde è 800 24 00 24. Cosa ne pensate dei cliché, degli stereotipi, dei modelli culturali che riguardano donne e uomini? 24 mattino. Sempre con voi in questo speciale di 24 mattina per parlare di donne e di uomini, e con i vari stereotipi, con i vari modelli di comportamento appiccicati agli uni e agli altri, ci portiamo dietro da tanto tempo, ma l'Italia sembra un paese, diciamo, tra quelli più sviluppati, più arroccato a certi cliché, anche se in realtà da questo rapporto dell'Istat che vi citavo, che è stato pubblicato proprio in questo mese a dicembre, dal titolo Stereotipi, rinunce e discriminazioni di genere, sembrerebbe che alcuni passi avanti si siano fatti, anche se poi, come ci spiegava poco fa la sociologa Chiara Saraceno, ancora si rimane radicati poi nel concreto, nel menage quotidiano, in famiglia, nella società, guardate anche nei ruoli professionali, soprattutto quelli di vertice, dove i ruoli contano veramente, dove c'è potere, se ci sono gli uomini oppure le donne. E intanto saluto finalmente Isabella Rauti, buongiorno. Isabella Rauti. Buongiorno a tutti. Consigliera del Ministro dell'Interno per le politiche di contrasto della violenza di genere, sessuale e del femminicidio, quindi su un aspetto estremamente importante che poi deriva da queste asimmetrie tra i ruoli, no? Tra chi si sente padrone, proprietario spesso nei rapporti e chi invece subisce certi comportamenti. Ma Isabella Rauti, tra l'altro le voglio fare una domanda. Da quando è stata fatta dimettere Josefa Idem, non esiste più il Ministero delle Pari Opportunità in Italia? No, e aggiungo anche un giudizio personale, purtroppo non esiste più. Sono d'accordo con lei. Nel senso che la delega è stata poi attribuita attualmente al viceministro del lavoro Cecilia Guerra, che egregiamente segue la delega, ma il ministero è un'altra cosa, e di un ministero delle pari opportunità invece ci sarebbe bisogno. E lei si è fatta sentire su questo? Sì, io e non solo io, molte donne impegnate abbiamo più volte richiesto, ognuno diciamo nel suo ruolo e anche raccogliendo delle firme, sottolineato la necessità di creare un ministero, ma purtroppo questo non è avvenuto. E questo, Isabella Rauti, non dice già in che tipo di cultura ci troviamo, di mentalità, perché poi ci sono quelli, secondo me, lo dico apertamente, un po' ipocritamente, dicono no, non c'è bisogno, che cosa serve un ministero delle pari opportunità, e, visto qual è la situazione attuale in Italia per molti versi, no, se ci fosse veramente assoluta parità, dignità nei ruoli sia in famiglia, nella società, nel lavoro, evidentemente non ci sarebbe bisogno, ma questo non c'è. Però il fatto che sia sparito è come se si continuasse a non dare importanza a questa cosa. Tradizionalmente diciamo è stato sempre un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e questo naturalmente fa differenza anche in termini insomma di risorse economiche. Poi ci sono stati due momenti della storia italiana, anzi tre, in cui è stato ministero, però purtroppo non è una storia in continuità. Io credo che ci sia bisogno di un ministero non per fare una nicchia, ma neanche possiamo pensare, perché sarebbe una ipocrisia, una retorica, che non esistano questioni importanti che riguardino le pari opportunità, e sottolineo che il Ministero e il Dipartimento delle Pari Opportunità nelle deleghe attribuite ai ministri comprendevano anche non soltanto le questioni di genere, ma la tutela antidiscriminatoria a più ampio raggio, cioè ovvero una parità per esempio rispetto ad altre forme di discriminazione legate per esempio all'orientamento sessuale, all'orientamento religioso, all'età e all'handicap. Quindi direi che c'è bisogno, è come dire non c'è bisogno di difendere i diritti umani. Isabella Rauti, lei quindi, che con il ruolo che ha, come dicevamo all'inizio, quale ritiene che sia effettivamente la situazione in Italia? Io ho letto evidentemente i risultati di questo report dell'Istat, mi hanno anche fatto riflettere, voglio fare un breve ragionamento. Sicuramente l'Istat ritrae un quadro che ha delle tendenze positive, come ha detto con estrema chiarezza Chiara Saraceno, però è anche vero che c'è un gap, direi, tra questa rappresentazione della parità e la parità sostanziale sociale, cioè come dire, noi abbiamo una parità normativa, descrittiva, di parità ampiamente raggiunta, ma la parità sostanziale e sociale invece stenta a radicarsi, e tra l'altro questo, come dire, va letto anche contestualmente al fenomeno delle violenze sulle donne. Dico anche, le cose sono strettamente collegate, per chi non lo capisse, no, Isabella Rauti? Sì, e non si può fare una lettura, come posso dire, soltanto in un senso di questi dati. Vorrei aggiungere una cosa, quindi un quadro tendenzialmente positivo, con però una rappresentazione della parità invece che una parità sostanziale, sociale e reale, e aggiungo anche un quadro positivo di parità ma con un modello di welfare che invece stenta a realizzare quella parità, cioè un modello di welfare nel quale le barriere e le criticità per le donne, come lo stesso report peraltro sottolinea, restano e rappresentano veramente un discrimine e anche una discriminazione a mio avviso. E anche quando lì dove si affronta il tema delle rinunce, si vedrà dai dati che oltre il 40% delle donne hanno dovuto nel corso della vita operare una rinuncia rispetto a un 19% degli uomini. Anche questo è un dato che va in qualche modo letto e capito. E allora l'aspetto sociale ma anche economico e il modello di welfare non favorisce un radicamento delle parità, e anche questo credo che sia un risvolto importante. Il rapporto pure sottolinea che le donne scontano una inferiore diciamo stabilità, una minore stabilità nel percorso lavorativo, quella che si definisce la segmentazione del percorso professionale, una criticità nell'ambito della carriera, nelle promozioni, aggiungiamo anche nella retribuzione pure a parità di lavoro svolto. Certo, anche sulle retribuzioni, chiaro, no? A parità di ruolo e anche di titolo di studio, le donne comunque anche in Italia continuano a essere. Esatto. E questo modello di welfare però in realtà favorisce le disparità, non realizza la parità, esattamente come nelle mentalità sì, c'è un, ripeto, una distanza tra le enunciazioni sulla parità, il report ci lo dice chiaramente, anche dei dati, sì, confortanti, e poi la parità sostanziale e sociale, e aggiungo la parità per esempio in situazioni come quelle delle violenze domestiche che sono diffuse e crescenti. Non sto parlando quindi del caso estremo del femminicidio, parlo anche delle violenze domestiche quotidiane e diffuse. Quindi allora forse dobbiamo entrare nell'ordine di idee che c'è una contraddizione tra quello che viene dichiarato e anche forse largamente percepito, perché no, e quella che poi però è la situazione reale, sostanziale e aggiungere anche sociale. Chiarissima Isabella Rauti. Prima di salutare Caterina Soffi, ci vorrei sentire Stefania da Milano, la prima ascoltatrice all'800 24 0024. Buon mattino, Stefania. Buongiorno. Buongiorno. Mi volevo riallacciare a quest'ultimo discorso della dottoressa Rauti, perché ne sono assolutamente d'accordo. Io ho la fortuna di avere un aiuto in famiglia da parte di mio marito, che comunque, però il mondo del lavoro effettivamente ancora non risponde alle esigenze della famiglia. Infatti nel mondo del lavoro le donne non hanno le stesse possibilità, e se c'è un discorso di famiglia che bisogna bilanciare all'interno degli impegni di una giornata, sul lavoro questa cosa viene vista in maniera, se vogliamo, negativa, perché comunque è come se la famiglia rubasse del tempo al lavoro, perché c'è ancora un po', secondo me, lo stereotipo della quantità di ore rispetto alla qualità ancora in Italia, soprattutto per quello che può significare un percorso di carriera. Quindi io tu, Stefania, hai fatto delle rinunce per pensare alla famiglia? Allora, diciamo che sicuramente io nella mia situazione, che io ho un bambino molto piccolo, quindi sono rientrata da poco dalla mia maternità, dal mio congedo parentale, e comunque questa cosa è vista come Stefania è impegnata sulla famiglia, e quindi anche i progetti investe poco sul lavoro, e quindi investiamo poco, esatto, su di lei. Questo si vede. Stefania, ti ringrazio molto, e questa è una situazione molto diffusa. Poi si dice sempre in Italia si fanno pochi figli e bisogna pensare alla famiglia, spesso si usano anche le persone omosessuali come capro espiatorio per dire no, quello sono la rovina della famiglia, e poi di politiche reali per le famiglie, come si diceva, come confermava Stefania, che non se ne fanno. E Caterina Soffici, ciao Caterina. Buongiorno, ciao. Giornalista, scrittrice, ha scritto un libro memorabile, Ma le donne no, come si vive nel paese più maschilista d'Europa. Continua a esserlo, per questo tuo libro di qualche tempo fa. Continua a essere memorabile. Purtroppo continua a essere memorabile. E devo dire che, guarda, io mi sono trasferita a Londra, io vivo a Londra ormai da 3 anni. Sei scappata praticamente, dillo, non trasferita, no, scappata. No. Un po' sì, un po' no, ma questa è un'altra storia. Comunque, in effetti, io vivendo all'estero mi rendo conto, vedo ancora con più lucidità quello che succede in Italia, perché ora poi non possiamo dire che stando fuori tutto è più tutto è meglio, che non ci sono disparità, le donne sono trattate come gli altri paesi bianchi. Non è vero assolutamente niente, anche questi sono stereotipi, no? Noi pensiamo di essere sempre calimeri d'Italia e tutto funziona meglio da altre parti, questo non è assolutamente vero. Già, ci conforta, ma mal comune non fa mezzo gaudio. No, ecco, però, con molti però, perché ci sono delle leggi antidiscriminazione. Io parlo dell'Inghilterra perché è un paese che adesso conosco bene, sto a Londra, per cui conosco bene come funzionano le cose lì. Ci sono delle leggi che in Italia rimangono sulla carta, no? È quello che dicevate prima sul quello che è il rapporto Istat, dove si vede i dati migliori, eccetera, e quello che poi è la realtà. Molto spesso in Italia, come succede anche in altri campi, ci sono delle leggi che poi non vengono rispettate. In Inghilterra ci sono delle leggi che, se c'è questa legge, viene rispettata, e uno può andare da un giudice, può andare da qualcuno e farla rispettare. Per dire, non è, quando io racconto la storia delle lettere di dimissioni in bianco, la gente rimane allibita, dicono non è possibile, dico sì, è possibile, e succede, sono cose che succedono e sono pratiche che in Italia vengono fatte. Cioè che fanno firmare alle donne le dimissioni in bianco in caso poi rimanessero incinta, di gravidanza. Se uno rimane incinta, poi viene la lettera, viene presentata in modo che il datore del lavoro non deve accollarsi la maternità, eccetera, eccetera. Queste cose, oppure per esempio i colloqui di lavoro in Italia sono fatti in maniera molto personale. Se te intervisti per un lavoro una donna, è normale, anche se è vietato dalla legge, che ti chiedano: ma lei è sposata, lei ha intenzione di fare figli, ma lei cosa, quali sono i suoi programmi per il futuro? Non è che ti chiedono qual è il suo scopo in questo lavoro che lei vuole fare, qual è le sue prospettive di carriera, quali sono le sue obiettivi che lei vuole raggiungere. No, ti chiedono che cosa vuole fare della tua vita personale. Ecco, e questa lo dice lunga, insomma, sulla questione della parità. Questo è vietato, cioè è vietato dalla legge italiana, non si potrebbe fare, ma la gente neanche lo sa. Se te provi a farlo all'estero, ti fanno una causa per discriminazione sessuale, capisci? Cioè, quindi sono delle piccole cose che però quando poi le metti tutte in fila ti danno l'idea di un paese assolutamente ancora molto molto arretrato. Caterina, ancora. Ci dobbiamo fermare. Isabella Rauti credo che ci debba salutare. Sì, posso rimanere in collegamento qualche minuto se serve. Vuole fare proprio un'ultima osservazione, visto che adesso abbiamo la pausa e poi non le voglio rubare altro tempo, abbiamo sì, anche un po' di pubblicità. Sì. I due interventi, uno ha sottolineato come in realtà si dichiari che c'è maggior bisogno di condivisione del lavoro di cura all'interno della famiglia, che è come dire l'aspettativa, l'enunciazione, però se poi guardiamo i dati ci rendiamo conto che il lavoro di cura continua a gravare per il 70% ancora sulle donne, quindi anche questa è un'altra contraddizione tra una rappresentazione della parità e poi la sostanza reale. Sull'aspetto della discriminazione, e ha ragione Caterina Soffici, noi abbiamo anche noi delle leggi, spesso queste leggi non sono correttamente implementate e talvolta anche non c'è consapevolezza degli strumenti legislativi che abbiamo a disposizione e che potremmo utilizzare ricorrendo, segnalando o facendo le denunce, evidentemente quelle del caso. E purtroppo noi dobbiamo continuare ad insistere su questo versante, evitando che questo susciti il fastidio della solita retorica sulle donne. Non è questo, è una questione di diritti sociali ed è una questione di un obiettivo che è quello di raggiungere una parità effettiva tra uomo e donna. Grazie Isabella Rauti, quindi le auguriamo buon lavoro, mi raccomando si dia da fare su questi aspetti. Grazie, buon lavoro a tutti e buon anno per il nuovo anno, mille propositi anche su questo aspetto. C'è Sandra da Firenze tra poco all'800 24 00 24, poi c'è sempre Chiara Saraceno con noi, Caterina Soffici, altri ospiti dopo, e voi continuate anche a riflettere sui modelli, sugli stereotipi di comportamenti, di percezione e di aspettative che si hanno nei confronti di donne e di uomini. Qual è secondo voi la reale situazione in Italia e anche quali sono le vostre convinzioni? 800 24 00 24 24 mattino. Sempre con voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, in questo speciale di 24 mattino dedicato alla percezione da una parte e la sostanza nel concreto dei ruoli di donne e uomini in Italia. Abbiamo salutato poco fa Isabella Rauti, consigliera del Ministro dell'Interno per le politiche di contrasto alle violenze di genere, sessuale e del femminicidio, ha parlato anche della mancanza da un po' di tempo del Ministero delle Pari Opportunità, da quando si è dimessa Josefa Idem, che ne era la titolare. Ha detto non si tratta della solita retorica, ma di affermare finalmente in Italia diritti sociali e una pari opportunità effettiva e definitiva. Sempre con noi Chiara Saraceno, la sociologa, e poi la scrittrice e giornalista Caterina Soffici, che ha scritto tempo fa "Ma le donne no, come si vive nel paese più maschilista d'Europa", e lei si è trasferita in Gran Bretagna e ci ha detto un po' da lì, da col suo canocchiale dalla Gran Bretagna, come si vede ancora da lì l'Italia, anche se dice gli stereotipi, i cliché, le discriminazioni non ci sono solo da noi, ma il nostro è un paese purtroppo particolarmente arretrato. Lo spunto parte da questo rapporto che vi dicevo dell'Istat presentato giorni fa, che si intitola "Stereotipi, rinunce e discriminazioni di genere", stereotipi che sono duri a morire questi schematismi che abbiamo in testa nella nostra cultura di cosa devono fare essere donne e uomini, e però dall'altra dice anche il rapporto Istat che alcuni cliché sui tradizionali ruoli maschili e femminili sono stati superati persino nel nostro paese, che storicamente è piuttosto duro, lento nell'avanzare sulle questioni di genere. Passi avanti si evincono, dicevo leggendo questo rapporto, dal fatto che il 77,5% della popolazione non è d'accordo nel ritenere che l'uomo debba prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia, la grande maggioranza si dice poco per niente d'accordo con le affermazioni, per esempio gli uomini sono dirigenti migliori delle donne oppure gli uomini sono leader politici migliori delle donne, l'80% si dice contrario a queste affermazioni. Nonostante tutto ciò, però, la metà della popolazione, il 49,7%, ritiene che gli uomini siano meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche, come ci diceva prima Chiara Saraceno, e il 76% delle persone ritiene che la coppia considera la divisione del lavoro, ritiene che vada bene per il momento. Intanto saluto, si sono aggiunti anche Claudio Risé, buongiorno Risé, psicoterapeuta che ha scritto un libro piuttosto eloquente su come la pensa e sul tema dei ruoli donne e uomini, Il maschio selvatico, no? È rimasto nella storia, Risè, questo libro. Sì, se ne sta per fare una ristampa. E poi, anche... che era quindicesima, sedicesima, insomma una nuova edizione. Quest'anno. Bene, bene, sì, ha avuto successo. Insomma. E poi Costanza Miriano, giornalista e autrice di Sposati e si sottomessa. Buongiorno Miriano. Buongiorno. Allora, lei sentiva, Miriano, quello che riassumevo un po' di questo rapporto Istat. Nel suo libro lei mi pare che invece voglia confermare che certi ruoli vanno tradizionali, vanno mantenuti e anzi fortificati. Ma più che tradizionale, io credo che siano le mie posizioni siano nuove, cioè credo che i ruoli vadano esplorati di nuovo, ma non credo appunto nella di tornare alla famiglia del passato in cui si era in qualche modo costretti a rispettare certi ruoli per la pressione sociale, per l'esoscheletro della famiglia. Io credo però profondamente che ci siano delle differenze assolutamente non cancellabili, grazie a Dio, tra uomini e donne, e che cioè, che sia bellissimo che ognuno, che l'uomo e che la donna tirino fuori la loro vera natura in famiglia, e è vero che le donne sono più portate per il lavoro di cura, ma non perché ce lo dica l'Istat o le leggi, ma perché ci piace. Cioè io ho 4 bambini e per me occuparmi di loro è la cosa più bella, più divertente, più eccitante, più emozionante. Lei ha 4 figli? Sì. Costanza Miriano, sì. Quindi per lei è divertente, ma dice ci piace nel senso a tutte le donne o... Beh, tutte le donne in carne ed ossa che conosco e che non fanno l'informazione, non fanno l'opinione pubblica, quelle vere che conosco hanno piuttosto il problema di trovare più tempo per la famiglia e vivono spesso il lavoro come, soprattutto negli anni dei bambini piccoli, come una grossa un ostacolo. Miriano, ma mi dica una cosa, Costanza Miriano, e quel Sposati e la seconda parte del titolo è Si sottomessa, questo sottomessa ha un valore erotico o proprio di ruolo costante nel menage quotidiano? No, in tutti... no, erotico assolutamente no. Sa no, che poi in Spagna hanno casi... chiesto il ritiro del un ministro ha chiesto il ritiro del mio libro dal mercato. Io pensavo fosse per la parola sottomessa, sono andata a vedere, ho visto che invece i libri in cui la sottomissione è erotica sono molto graditi. Perché quello è un gioco di ruolo e uno può spostarlo da una parte o dall'altra, esatto, giocarlo come vuole. Invece se è fisso questo ruolo, ma sottomessa, cosa intende Miriano per essere sottomessa? Guardi, la parola è di San Paolo nella lettera agli Efesini, anche in altri passi. Ieri, tra l'altro, la lettura... Che si rivolgeva anche agli uomini però, evidentemente, o no? Ma no, dunque, il vero punto su cui insomma ho fatto la mia riflessione, ho scritto 2 libri, tra l'altro nessuno cita mai il secondo, che è Sposala e muori per lei, perché credo che i 2 difetti principali, i 2 punti principali su cui l'uomo e la donna debbano lavorare sono per la donna il desiderio di controllo e per l'uomo l'egoismo, e quindi sottomessa significa fare un passo indietro rispetto al nostro desiderio di controllo e disinnescare in questo modo l'egoismo maschile e quindi fare un passo indietro mi sembra non ma mi sembra un po' un rischio fare un passo indietro e pensare in questo modo di disinnescare l'egoismo maschile, mi sembra che possa avanzare. Però poi continuiamo, Mirano, volevo sentire da questo punto di vista Claudio Risè. Da quale punto di vista? Cioè, diciamo, la tesi che ha espresso Aurora sì, Costanza Mariano. Guardi, quello che io trovo anche nel lavoro con i pazienti, con le donne e con gli uomini, sono due cose poco rappresentate in questi studi, soprattutto nell'ottica assunta appunto dai vari ministeri, organizzazioni nazionali e transnazionali. Da una parte il fatto che in realtà gli uomini sono abbastanza stufi di e stanchi proprio di questo potere che hanno a lungo esercitato nel tempo. Loro, e anche lì c'è da discutere su quanto questo potere sia stato imposto alla donna o quanto, per esempio, seguendo gli studi di persone come Ivan Illich, che è stato uno. Quindi sono pronti a passarlo alle donne questo potere di cui sono stufi? Questo sono assolutamente stufi di esercitarlo. È interessante in questo studio di cui ho visto i dati, il fatto che infatti i giovani, le persone delle categorie più giovani sotto 34, sono assolutamente d'accordo sul e contro il fatto che l'uomo è l'uomo che deve provvedere alle necessità. Sì, è vero, più giovani sono. Ma questo non solo per ragioni di apertura di mente, eccetera, proprio perché lo vivono come una cosa. Una responsabilità che le ha un po' stanca. Ingiusta, impraticabile e quindi oggi non interessante. E questo è un aspetto molto importante. L'altro anche naturalmente confermato dal fatto che questi uomini violenti, che invece sembrano confermare una volontà di controllo, potere, di proprietà, eccetera, sì, sono in realtà, evidentemente, se si va a guardare nelle loro storie, dei bambini dipendenti da queste ex mogli, da queste figure assolutamente materne da cui non riescono assolutamente a separarsi. C'è anche questa componente. Risè, ci fermiamo un attimo perché c'è la viabilità, poi comincio a dare spazio alle ascoltatrici e ascoltatori che attendono da tempo, oltre a ritornare con Caterina Soffici e Chiara Saraceno. C'è Franco dalla provincia di Vicenza, Sandra da Firenze, Carla da Milano e molti altri all'800 24 00 24. Tra poco 24 mattino. Uomini e le donne sono uguali. Parlando delle differenze, dei ruoli, eccetera, Roberta Giordano sempre con voi, sempre molti ospiti. Vorrei dare parola adesso però almeno due ascoltatrici, poi ritorniamo con Chiara Saraceno all'800 24 00 24. Sandra da Firenze. Sandra. Pronto? Buongiorno Sandra. Sì, buongiorno. Buongiorno, io sono Sandra, parlo da Firenze. Sì, è chiaro. Ho 67 anni, ho vissuto una vita, diciamo, divisa fra famiglia e lavoro, ma divisa in senso positivo, perché ho lasciato il lavoro quando sono nati i miei figli per scelta, ho accudito i figli fino a che non avevano un'età di 8-9 anni, un maschio e una femmina, ho ripreso a lavorare, non nascondo con fatica, ho ripreso a lavorare anche perché mi sentivo una donna di serie B, la società mi faceva sentire una donna di serie B a quei tempi. E parlo degli anni 70. Donna di serie B perché ti dedicavi ai figli? Perché mi dedicavo ai figli, perché avevo fatto una scelta che a detta di molti era sbagliata, perché frustrava la mia intelligenza e quindi non era ritenuta una scelta valutante. Allora ho ripreso a lavorare, ho lavorato per 20 anni, adesso sono in pensione. E la mia vita mi ha insegnato questo, ho potuto constatare questo, ed è il mio parere, che peraltro mi trovo molto d'accordo con la professoressa Emiliano che ha parlato prima, nel senso che all'interno della famiglia a quei tempi, negli anni 70, la donna era vista come una presenza non indispensabile, sostituibile. la donna era, si doveva affrancare da quella che era la cura dei figli, la cura della famiglia. Ecco, ma adesso per... Sandra, come la pensi tu a conclusione, diciamo, di tutta questa lunga esperienza? Adesso cioè il resto, allora, della vita. Allora, secondo me il femminismo è stato una buona cosa portata avanti nel modo sbagliato, nel senso che doveva essere rivalutato le capacità della donna all'interno della famiglia, ma la donna non doveva essere o cercare di essere uguale all'uomo. La donna non è uguale all'uomo. Sandra, sei stata chiarissima, poi chiederemo a Chiara Saraceno cosa pensa. Vorrei però sentire anche un uomo, Franco, della provincia di Vicenza. Franco, per fortuna quella canzone non ha ragione, che gli uomini e le donne sono uguali. Beh, intendeva di pari dignità, ecco, non nel senso che hanno le stesse sopracciglia o le stesse, ecco. Sì. Però io vorrei ricordare che tante volte, come sono gli uomini, è un po' due cose. Una, che è responsabilità di altre donne, le madri, le nonne, che hanno insegnato a discriminare altre donne. E di esempi ce ne sono tantissimi. Sì, questo è vero in parte. Sì. Seconda cosa, vorrei ricordare le donne, che non è essendo cercando di fare la caricatura agli uomini che si diventa migliori di loro, perché non è fumando come gli uomini, non è tradendo come gli uomini, non è dicendo le bugie come gli uomini. Però lo lasciamo scegliere alle donne cosa decidono di essere, sì, Franco, però, che dici? Però c'è anche una cosa da dire, insomma, non è diventando stronzi come gli uomini che si diventano come loro, ma essere diversi e prendendo magari le nostre qualità e tenendo le proprie caratteristiche. Perfetto, insomma. Franco, sei stato molto chiaro anche tu. Adesso Chiara Saraceno, così non la tengo ancora sospesa, Chiara, commentando sia Sandra che Franco, sì. Se vuoi. Sandra, che c'è il femminismo, ma anche Emiliano prima, cioè, intanto io odio sentire parlare della donna e l'uomo, cioè come se fossero entità omogenee, tutti gli uomini sono in un certo modo, tutte le donne sono in un altro modo. Una delle rivendicazioni del femminismo, ma è quello di dire siamo tutti diversi e per favore non imponeteci il nostro destino e le nostre caratteristiche. E questo è fondamentale, quindi non è che ci sono la donna è fatta così e l'uomo è fatto così. Ha ragione Lisea a dire che gli stereotipi giocano anche contro gli uomini, perché a me è molto colpito questo dato, per cui siamo pari, siamo bravi, cioè, però gli uomini non solo non sono competenti sulle faccende domestiche, sulle di cura. Faccende domestiche, ma devono, come dire, sono loro che devono innanzitutto mantenere la famiglia. Quindi questo sovraccarico, che significa che se uno non è in grado, se vorrebbe fare altro, eccetera, viene considerato meno uomo. Vero, per vero. Esempio. Quindi anche questo è un peso che hanno entrambi. Se tutte e due potessero, gli uomini e le donne, potessero combinare un po' diversamente i diversi aspetti della vita, sarebbe meglio. E allora, da questo punto di vista, è vero che le politiche sociali, le leggi contano moltissimo, però conta anche moltissimo i modelli culturali. Tutto sommato, per un'idea di parità che però sul piano pratico conta pochissimo, nel senso che ciascuno si tiene ai suoi stereotipi rassicuranti, è come dire un compromesso che può funzionare finché le cose vanno bene. Appena poi succede qualche disastro, la coppia si rompe, lui perde il lavoro, lei si ammala, eccetera, si vede che i costi di questa cosa sono troppo pesanti. Senti, Chiara Saraceno, tu puoi rimanere ancora, noi andiamo avanti fino alle 9:30, dimmi tu se sei... Io non dovrei proprio andare. Vabbè. Chiara, ti abbraccio, allora ti auguro un ottimo anno, ci sentiamo nell'anno nuovo. Caterina Soffici, si può dire anche da quello che diceva prima l'ascoltatrice, lei soprattutto, Sandra, se non sbaglio, sì, è stata a cavallo un po' tra due epoche, però ancora siamo in una fase transitoria, no? Tra passi avanti che si fanno e passi un po' indietro, a seconda dei punti di vista, dal mio, dal tuo, magari non da parte di Costanza Miriano o Risè, che poi risentiamo. Che dici? No, è chiaro che siamo in una fase di transizione, perché comunque si pensa quando è che le donne si sono affacciate al mondo del lavoro e al mondo della società, anche dal punto di vista proprio legale, quando abbiamo prendi l'Europa, no? Quando è che hanno cominciato a poter votare, a poter decidere in politica, certo, a poter intervenire? Cioè, le donne in verità hanno cominciato a lavorare nelle fabbriche, a lavorare nella prima guerra mondiale, cioè sono 2000 secoli, su 2000 anni, negli ultimi 100 anni, no? Che quindi cominciavano ad andare a lavorare nelle fabbriche perché c'erano tutti gli uomini al fronte e le donne, parlo nei paesi in Germania, in Francia, in Inghilterra, cominciavano a affacciarsi per la prima volta al lavoro domestico fuori di casa, per non parlare dei contadini, no? Ma però dico proprio il lavoro industriale, quindi quello retribuito, vai e ti pago e quindi tu hai una capacità poi di spesa, perché questo qui è la cosa importante secondo me, che è giustissimo il discorso che faceva Chiara Saraceno sul modello culturale. Il modello culturale però è dato da tante piccole cose, da tanti piccoli fattori, perché non è che nasce, c'è un modello culturale, noi entriamo sotto questo cappello è fatto da piccole cose. Per esempio, ci sono molte donne, infatti il discorso della Miriano, la parola sottomessa, a me spaventa in maniera incredibile, no? Perché è una parola molto rischiosa, perché poi lei la declina in quella maniera che ci ha spiegato, il passo indietro, bisogno di controllo, cioè. Ma in verità dire una parola del genere è una parola molto rischiosa, perché io ho conosciuto sia nella mia vita professionale che anche nella mia vita personale persone che hanno deciso o sono state costrette, per esempio, a lasciare il lavoro e poi si sono trovate sottomesse ai mariti. Perché nel momento in cui tu perdi l'indipendenza economica, tu avevi una tua indipendenza, una donna che lavora ha una sua indipendenza economica e quindi ha un potere anche psicologico verso un marito che è importante. E questo è comunque di autonomia, a livello, quindi anche a livello di modello culturale, no? Io ho conosciuto delle persone che fanno la cresta sulla spesa, proprio nel senso, quando vanno a fare la spesa pur di mettersi da parte qualcosa, pur perché di mettersi da parte dei soldi per poterli spendere in maniera che il marito non possa controllare cosa loro spendono. Queste sono persone che sono venute a parlarmi quando io presentavo il libro in giro per l'Italia e mi hanno raccontato queste storie. Cioè, io sono rimasta agghiacciata, io pensavo che queste fossero storie del passato, degli anni 50, degli anni 60. Riguardano ancora il nostro paese. È una transizione molto lunga, molto lenta, molto, molto difficile. Caterina, certo, tu puoi rimanere ancora? Un pochino ancora, sì. Perché poi abbiamo una pausa del GR, così senti anche gli ultimi aggiornamenti. Claudio Risè e Costanza Miriano, abbiamo un minuto ciascuno adesso per dire, Costanza Miriano, cosa consiglia quindi alle donne, brevemente, dal suo punto di vista? Cosa significa sottomessa, che non significa subire un marito, cioè io sto parlando di un rapporto d'amore, non di un rapporto di potere psicologico sugli uomini perché lavoro e quindi ho un potere. Cioè, no, non intendeva questo in quel senso, che Caterina Sofici, ma nel senso di dire sono autonoma, quindi ci amiamo finché ci amiamo, ma non perché io dipendo da ma te. Io credo che l'obiettivo per tutti noi sia un rapporto d'amore, non di andare 8 ore in fabbrica così finché se non amo più mio marito. Non credo che quella sia la conquista, non è il mio sogno, cioè il mio sogno è un rapporto di amore, la pari dignità secondo me nessuna ragazza, donna, diciamo della nostra età, può, in sana di mente, può mettere in dubbio che ci sia una pari dignità adesso per noi che lavoriamo. Anch'io sono giornalista alla RAI, quindi non è che sono una casalinga. Costanza Miriano, sente che mi stanno alzando la sigla, ci dobbiamo lasciare. Io intanto la ringrazio, Costanza Miriano, poi riprendiamo dopo la trasmissione, dopo le 9, dopo il GR, tra poco. Insieme Roberta Giordano con voi per questa puntata speciale di 24 Mattino dedicata a, in particolare a questo rapporto Istat pubblicato giorni fa che riguarda i ruoli di donne e uomini in Italia, dal quale si evince che da una parte ci sono effettivamente dei progressi, dei passi avanti a seconda dei punti di vista, ma penso che si possa dire così sul fatto che ci sia una maggiore raggiunta pari dignità, e dall'altra però è più, come ci diceva all'inizio Isabella Rauti, quasi una rappresentanza che abbiamo in testa, una rappresentazione, scusate, di quelli che sono i ruoli ormai paritari, dall'altra però nel concreto, nella vita di tutti i giorni, una distanza, no, tra la percezione, la rappresentazione e quello che poi si vive nel concreto. Prima di sentire ancora Claudio Risè e poi le altre ospiti che si sono aggiunte, io, abbiamo salutato Chiara Saraceno poco fa, comincerei a ritornare alle vostre voci di ascoltatrici e ascoltatori al numero verde 800 24 00 24, ringraziando per l'infinita pazienza Carla da Milano. Carla. Pronto? Pronto, eccoci qua finalmente, prego. Buongiorno. Allora, io sono una donna di 53 anni appena fatti e quindi rappresento la generazione, quella degli anni 60, insomma. Sì. Io sono ricercatore, lavoro per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ho tre figlie, adesso la più grande ha 20 anni, la più piccola ne ha 15 quasi. E nella mia vita io sono passata, riguardo all'argomento di cui stiamo discutendo, attraverso molte fasi. Sono partita da figlia di quegli anni, da grande femminista, e lo sono tuttora, e ritengo che il femminismo, pur avendo sostenuto e portato avanti a volte forse nel modo sbagliato, come diceva qualche ascoltatore poco fa, sia stata una grande cosa, perché tutti i movimenti d'assalto devono, per portare a casa 10 devono chiedere 100, 90, 50, che vedete voi. Io penso che il Novecento, quindi il secolo passato, si sia portato dietro questo grosso conflitto e contraddizione del lavoro per associato, lavoro esterno alla famiglia, associato al lavoro interno alla famiglia, quindi alla cura dei figli, degli anziani, eccetera. Questa è la grande contraddizione o conflitto del Novecento, insomma, che si è portato il Novecento. E tu, Carla, come l'hai risolto? Ho lavorato nella ricerca, posso dire che ci sono lavori che sono più confacenti a questo dualismo famiglia-cura e altri lavori che lo sono molto meno. E poi all'interno di questi lavori ognuno si trova la sua nicchia ecologica, nicchia di sopravvivenza, ci sono nicchie più facili, nicchie più difficili. Io, potendo scegliere, ho scelto sempre le strade più difficili e forse adesso sono un po' stanca. Faccio l'esempio, nella ricerca io sono un fisico, lavoro agli esperimenti che ci sono giù ai laboratori del Gran Sasso, e come quando si costruiscono apparati, si costruiscono esperimenti, ci sono quelli che fanno il lavoro di hardware, cioè proprio di progettazione. E vabbè, questo soggettivamente, no, al di là di essere donna. Questo, ecco, allora, nell'ambito della ricerca in Italia in fisica ci sono tantissime donne, la più nota nel mio settore è Fabiola, che saluto se sente, mia compagna di università, che ha fatto una grande strada, grande carriera, e ci sono donne che e devo dire che l'Italia è molto all'avanguardia in questo, io lavoro molto con i colleghi tedeschi. No, ma infatti di passi avanti, Carla, se ne fate anche nella ricerca. Concludendo, Carla, perché abbiamo tempi stretti. Concludendo, io penso che ci sono delle differenze intrinseche fra uomini e donne, ci sono, è inevitabile negarle, per l'aspetto fisico e per l'aspetto anche dell'intelligenza, che le leggi ci sono, come diceva un'ascoltatrice prima, forse Caterina Soffici, le leggi ci sono, non vengono rispettate, e quindi sarebbe necessario invece farne altre e far rispettare quelle che ci sono nell'ambito, in questo ambito della parità, delle pari opportunità e questo diritti, è un auspicio, Carla, che in altri ambiti. Carla, che ci facciamo anche per il nuovo anno. Ora però devo sintetizzare, perché sennò non riusciamo anche a salutare poi gli altri ospiti, a salutare anche le ascoltatrici e gli ascoltatori. Claudio Risè, prima di lasciare rispetto a questo conflitto casa e fuori, che appunto diceva la ascoltatrice ha caratterizzato buona parte dei rapporti negli ultimi anni, come risolverlo dal suo punto di vista? Rapidamente una cosa, in tutti questi discorsi sulle pari opportunità, l'uguaglianza eccetera, non vedo mai citato un fatto importantissimo che differenzia profondamente la donna dall'uomo, e qual è? il fatto che noi tutti siamo stati prima di nascere per 9 mesi nella pancia di nostra madre, non di nostro padre o da qualche altra parte. Veniamo tutti da una donna, e questo è chiaro. Veniamo tutti dalla donna, e questo periodo, come ha studiato a lungo tutta la psicoanalisi del secolo scorso, a partire da Melanie Klein in poi, condiziona poi tutta la nostra vita, perché noi siamo in simbiosi con la madre, non siamo ospitati dalla madre e basta. In questo periodo si forma tutta il nucleo fondamentale della personalità, che poi compie la sua formazione nel rapporto con la madre nei mesi successivi. Allora, questa cosa qui è assolutamente, definisce perfettamente la fondamentale differenza tra donna e uomo, perché la donna ha questo enorme potere, compito, responsabilità del fare, letteralmente fare i figli, e così costituire il loro benessere anche psichico, perché tutti i grandi disturbi, oggi assistiamo a un enorme sviluppo di disturbi psichiatrici, gran parte dei quali, secondo gli studi del secolo scorso, sono legati proprio alla rottura della necessaria tranquillità e pienezza di quel periodo. Allora, questa cosa io non la trovo nelle riflessioni dei ministeri, dell'Istat, che anche eventualmente potrebbe collegare un dato con l'altro e non lo fa mai, e continua a parlare di potere degli uomini, sono più bravi gli uomini o le donne, eccetera. Siamo a un livello di commento di fatti, mi riferisco proprio anche alle riflessioni delle istituzioni pubbliche, di fatti importantissimi dal punto di vista antropologico e sociale, e siamo a un livello assolutamente superficiale. Claudio Rise, vediamo se gli altri ospiti colgono questo bisogno di riflessione che diceva. Poi ritorno ancora all'800240024, c'è Anna da Udine, c'è Isabella da Pavia. Saluto intanto anche Vladimir Luxuria. Buongiorno. Buongiorno Vladimir, ex parlamentare, artista, scrittrice, eccetera, e c'è anche Lorella Zanardo. Buongiorno Lorella. Buongiorno, buongiorno. Famosissima per Il corpo delle donne, che è stato un documentario sulla rappresentazione delle donne in Italia, ma è anche un libro, poi un blog. E volevo sentire però appunto su questo, proprio Lorella Zanardo, su questo che diceva Claudio Risè, no? A proposito insomma, questa mancanza di pienezza, di accoglienza, di presenza, insomma, costante della madre vicino ai figli, adesso che anche da anni le donne lavorano anche fuori, oltre a lavorare in casa, questo avrebbe creato problemi psichiatrici. Nel tuo documentario Il corpo delle donne, famosissimo Corpo delle donne, come si lega la rappresentazione delle donne, appunto, come con tutti gli stereotipi che conosciamo, delle donne scosciate, delle donne senza molta parola ma molta visibilità fisica, a questo che diceva Risè, se riesci a trovare un collegamento? Sì. Io tra l'altro mi faccio portatrice, perché da 4 anni e mezzo, da quando è uscito il documentario, ho scelto di essere quasi sempre nelle scuole dove mi chiamano, dove non scelgo io, diciamo, di andare, ma c'è stata un'esplosione di richieste, quindi frequento le 14-20enni e anche oltre, e quindi porto un po' il loro pensiero. Claudio Risè è un esperto di questo tema, quindi ascolto con grande interesse. C'è da dire però che finché le istituzioni non si fanno carico di quanto diceva Risè, cioè questo non è un problema delle donne, no? È un tema molto importante quello che dice Risè, ma i figli sono nel ventre della madre, ma poi nascono, vanno nel mondo, sono delle persone di cui la società si dovrebbe far carico. Cosa fa sì? Cosa succede? Che io ricevo al blog centinaia di lettere ormai da anni di ragazzine e ragazze che mi dicono che ormai temono di fare figli, tanto è vero che questo fa sì che l'Italia abbia uno delle percentuali più basse al mondo per quanto riguarda il numero di figli, no? Molte hanno proprio paura, le trentenni in particolare mi scrivono dicendo: sono ricercatrice, come diceva l'ascoltatrice prima, io temo di fare figli. Quindi Qual è il vero problema? Che da una parte sentiamo queste notizie, come quella che ci dice Arrivé, che ci creano anche una certa ansia, perché probabilmente sono vere. Dall'altra la domanda che sorge è: ma gli uomini, le istituzioni, cosa fanno? I tempi dell'azienda non sono spesso favorevoli a quanto dice Arrivé. Quindi qual è la soluzione? Da una parte dobbiamo fare più figli, dall'altra dobbiamo aumentare il PIL e lavorare, dall'altra l'Italia è molto resistente per quello che concerne la conciliazione di tempi di lavoro con il tempo della vita personale. Quindi c'è una domanda che ormai ci rifacciamo in tantissime da anni, è in che modo si possono aiutare non tanto le donne ma il paese a far sì che le madri, che le donne possano fare figli e possano crescerle in modo non ansiogeno. Questa è la domanda. E poi mi permetto di dire una cosa, questo è il discorso che stiamo facendo adesso, è interessantissimo e come dice Arrivé, altrimenti sennò il dibattito si è molto abbassato. Allora, una piccola soluzione c'è, per esempio, per far sì che le ragazze abbiano meno ansia. Da subito organizzare una trasmissione televisiva, ricordo ultimi dati Censis, la televisione, contrariamente a quanto viene detto da molti in modo errato, è la prima fonte di informazione anche per le ragazze e i ragazzi, in cui queste tematiche vengono affrontate in modo moderno, efficace, e si rivolgono ai ragazzi e alle ragazze che sono molto soli per quanto riguarda l'elaborazione di quanto stiamo dicendo ora. Lorena Zanardo, poi riprendiamo questo discorso, ma chiedo a tutte le ascoltatrici, ascoltatori e gli ospiti di essere il più sintetici possibile adesso, perché comincia a correre il tempo, mi viene un po' di ansia anche a me. Quindi Anna da Udine, se non sbaglio, ma molto sinteticamente, Anna, scusami. Sì, brevemente. Grazie. Dunque, io ho 61 anni, sono insegnante di scuola primaria e ho cresciuto due figli. Inizialmente avevo fatto delle supplenze nella scuola, ma poi ho dovuto rinunciare per seguire i figli. Ho rinunciato anche a un incarico annuale che mi avrebbe dato del beneficio di punteggio per entrare in ruolo. Dopodiché ho atteso 9 anni un concorso che ho superato, grazie a Dio, con notevoli fatiche, perché dovevo badare ai figli. Non esistevano a quel tempo asili nido, né avevo la possibilità di farli curare da qualcuno. Ora io mi ritrovo, pur essendo della famosa classe 52, penalizzata per la mancanza di pochi mesi dalla legge Fornero. Famosa esodata, sei anche tu un'esodata, Anna? Quasi, sì. E quindi io dovrei lavorare per raggiungere la parità, se questo è positivo, dell'uomo fino a 66 anni. Ecco, è vero tra che un lavoro ufficiale meno totalizzerei quasi 50 anni di lavoro, perché per mantenermi agli studi, che mi piaceva studiare, tra l'altro ho fatto anche dei lavori estivi. Ora io sono penalizzata perché ho dato un contributo alla società che però non è stato riconosciuto, Anna. No. Questo è chiaro, sono tra le varie contraddizioni, tra le varie pecche, le varie lacune, mancanze con questo sistema anche di welfare di cui parlava prima Isabella Rauti, dicendo appunto poi sono le donne che fanno il welfare, in buona parte il welfare in Italia. Anna, ti devo salutare. Isabella da Pavia, però veramente sintetica, Isabella, se no devo... Assolutamente, sì. Buongiorno, io volevo tanto richiamare l'attenzione sulla violenza sulle donne, che non parlo tanto di violenza fisica, ma le famose molestie domestiche, che sono terribili, perfide, cattivissime e ti distruggono la vita. Velocissimamente, io parlo per esperienza personalissima, ahimè, sono andata davanti a un giudice, sono stata giudicata non so con quale colpa da questo giudice, e il mio processo è stato passato al famoso giudice Forno, quello di Berlusconi, il quale non mi ha neanche vista, non sa neanche come sono fatta io, e ha dichiarato che io sono affetta da gravi disturbi psichici, per cui mio marito ha potuto impugnare questa sentenza, e immaginate come si è separata. Sei separata tu, Isabella? Sì, sono separata, ma io parlo di cose dell'anno scorso, non di 100 anni fa, per cui non c'è nessuna attenzione, vai da una poliziotta, da un'ispettrice, donna, da un medico a farti vedere le ferite, cosa, vieni così trattata come se tu andassi lì a raccontare. A fare la mitomania, Isabella. No, ho capito, purtroppo la tua esperienza della gravità ne siamo ben consapevoli. Infatti saluto Alessandra Paunks, Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Che ha fondato il CAM, Centro d'Ascolto per Uomini Maltrattanti, nel 2009, dopo 15 anni di esperienza in un'associazione di sostegno per le donne vittime di violenza. Brevemente, Alessandra Pounce, tutto questo discorso che abbiamo fatto, naturalmente, più vengono esacerbate queste discriminazioni, questa simmetria tra donne e uomini, se ne parlava anche prima, a seconda di chi anche ha il potere economico in casa, e quindi la parte più debole non può affrancarsi in caso di situazioni insostenibili, le due cose ovviamente si collegano, poi si arriva ai maltrattamenti, a chi sopraffa l'altro. E quindi Alessandra, ci dici proprio sinteticamente un po' della tua esperienza? Dunque, negli ultimi 4 anni il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti ha accolto circa 210 richieste d'aiuto da uomini che provenivano più o meno da tutta Italia. Questa è già stata una prima scommessa, perché l'idea che gli uomini si rivolgessero spontaneamente, perché nel nostro paese non esiste un obbligo di prescrizione, diciamo, come esiste in altri paesi, ci ha fatto capire che qualcosa sta effettivamente cambiando, diciamo. Paradossalmente voglio portare un barlume di speranza, di ottimismo, di luce. Meno male. Fa sempre bene un pochino, anche se la situazione non è rosea da quello che sentiamo, no? Però, no, ma sta cambiando, cioè sicuramente è molto lentamente, molto ma qualcosa lentamente e con molto ritardo, quindi è ovvio che i passi che vengono fatti sono sempre comunque molto in ritardo, però comunque credo che quando non so se circa 10-15 anni fa Carmine Ventimiglia tentò di fare una cosa simile nel far emergere una richiesta d'aiuto maschile rispetto alla violenza, non rispose nessuno. Ecco. Questo vuol dire che invece i tempi sono passati e le cose un pochino sono cambiate, sì. Insomma, quest'anno hai detto quante, Alessandra? Quest'anno un'ottantina. Un'ottantina circa. Che non sono pochi, non sono neanche tanti, ma non sono neanche pochissimi rispetto appunto alla cultura dominante. Saluto Vladimir Luxurello, ti risaluto Vladimir. Sì. Senti, a proposito, stiamo parlando appunto di stereotipi, di ruoli. Una persona come te dovrebbe avere una concezione particolare, no? di vincoli, di identità, per cui se sei in un modo devi comportarti in un modo, se sei in un altro devi vivere e comportarti in un altro. A proposito di questo rapporto dell'Istat di cui parlavamo sin dall'inizio, no? Che dice che ci sono dei passi avanti sui cliché che riguardano i ruoli sessuali di donne e di uomini, e dall'altra c'è ancora molta resistenza, perché c'è una certa distanza tra quella che è la nostra rappresentazione, che può essere anche piuttosto aperta, soprattutto tra i più giovani, e quelle che poi sono la vita vissuta nel concreto, in famiglia, in società, nel lavoro. Sì, stavo pensando come è strana la vita, perché poi in realtà sono stati gli uomini a obbligare per primi le donne a lavorare, perché la prima volta che le donne sono andate a lavorare in fabbrica è stato durante la prima guerra mondiale, perché gli uomini, i signori della guerra, i maschi signori della guerra, avevano deciso di mandare al macello milioni di giovani strappati dalle campagne, dalle fabbriche, per cui hanno obbligato le donne ad andare a lavorare. Cosa si è scoperto? Che rispetto a quel cliché del ruolo di genere, secondo il quale la donna non poteva lavorare perché non aveva il fisico adatto per lavorare, oppure quello prima del diritto al voto, secondo il quale la donna non aveva la conformazione mentale per interessarsi di politica, ecco, si è scoperto che tutta questa diciamo così vincolo del ruolo di genere non aveva nessun fondamento, cioè che era un'ideologia maschilista, quella secondo la quale certi lavori sono solo per gli uomini, altri lavori sono solo per la donna. Anche nella terminologia, nel linguaggio, si usano termini solo al maschile per ruoli di potere come presidente, magistrato, prefetto, certo. Mentre per esempio non è la parola casalingo è sempre una parola che viene vista quasi come spregiativa. Questa è una battaglia che faccio da anni, io le dico anche alla sindaca, alla ministra, alla commissaria, queste cose lo sempre detto, esatto. E ti ringrazio anche di sottolineare questo aspetto. Sì, è quello che si chiama genderismo. Io sono la più trasgressiva rispetto al ruolo di genere, perché figuratevi, ci sono delle aspettative rispetto alla biologia quando una persona nasce uomo, nasce donna. Ma io credo che il concetto di autodeterminazione, il concetto di dimostrare le proprie capacità, debba sconfiggere certi pregiudizi che ci sono ancora. Anche perché ho scoperto che più una società ha degli stretti vincoli sul ruolo di genere, più è una società anche omofoba. Le faccio un esempio, vado un po' fuori dall'Italia. Le donne in Arabia Saudita non possono guidare, perché si pensa che una donna in quanto donna non deve guidare, sono arrestate se vengono trovate al volante, e in quella stessa società l'omosessualità è punita con la pena di morte. A me piacerebbe, a parte la politica che si deve interessare ad esempio del fatto che una donna non deve vergognarsi di dire voglio diventare madre perché può temere che non venga rinnovato il suo contratto di lavoro, ecco, io vorrei anche una società in cui anche quando ci sono delle relazioni internazionali con altri paesi si debba sempre porre la questione dei diritti umani, del diritto alla libertà delle donne e dei gay e delle trans, perché credo che sia una questione che debba essere affrontata a livello globale, e di smettere di pensare che la biologia debba essere considerata come qualcosa che ti deve precludere da alcuni campi della società, come un destino ineluttabile imposto a tutti, e affinché le pari opportunità siano sia una questione di genere, quindi che sia le donne sia gli uomini devono poter avere gli stessi spazi, ma anche una questione di identità di genere, cioè che anche le persone transgender possano accedere a tutti i diritti, a quello della casa, a quello del lavoro. Grazie Vladimir Luxuria, trasparente, chiarissima, efficace come sempre. E sento Massimo da Milano, proprio ratto come la folgore, caduto Massimo, più veloce di così non si poteva. Quindi Agnese da Roma, velocissima Agnese, scusami. Sì, buongiorno. Sì, veloce, ciao, buongiorno. La sento, sì, sento poco, posso alzare un po' la radio? Vabbè, io volevo dire che secondo me la condizione nella quale si trovano molte donne è dovuta fondamentalmente al loro comportamento, cioè è sbagliato, insomma ce le siamo un po' volute noi queste situazioni, perché la signora che per esempio prima ha chiamato dicendo che ha rinunciato a lavorare perché doveva crescere i figli, d'accordo, è tutto giusto, ma i figli li ha fatti insieme ad un uomo, al marito, quando c'è da stabilire. Nonostante ci siano delle differenze fra uomo e donna, quello è innegabile, c'è da stabilire che c'è un impegno che deve essere portato avanti nell'ambito di una famiglia e non dare tutte queste... Cioè dici insieme, vanno distribuiti equamente, anche se leggevo da questo rapporto Istat che un pochino gli uomini sono un po' più impegnati e investono un pochino più sui figli. Agnese, devo passare a Massimo da Milano. Massimo, anche tu veramente ratto come la folgore, Massimo, scusami. Buongiorno a tutti innanzitutto, niente, volevo solo dire che la discussione è stata molto interessante, io sono rimasto quest'anno veramente sconvolto da quello che è successo nell'ambito della violenza alle donne e sono molto felice di quanto questa sia stata messa in rilievo anche dai media, ma la cosa che secondo me è più preoccupante da un punto di vista del rapporto tra uomo e donna è proprio relativo a queste donne che pur subendo violenza e pur subendone anche fisicamente in modo molto forte gli effetti poi tornano dall'uomo. Questo secondo me è un tema tra i più rilevanti, proprio tra i più rilevanti e i più basic sui quali guardare nell'ambito del miglioramento del rapporto tra uomo e donna. Hai ragione Massimo, ti ringrazio. Avrei voluto sentire Claudio Risè che però ci ha salutati poco fa e lo saluto a mia volta. Caterina Soffici, abbiamo ancora un minuto e mezzo per una tua conclusione. Allora, guarda, io vorrei... ci sono due cose che mi hanno colpito in tutta la discussione. E una è questa, che il vero equivoco di fondo, quando si parla, ad esempio, qui abbiamo parlato di femminismo in senso lato, no? Che il femminismo è sempre considerato una parolaccia. Sì. E invece non è vero, perché qualunque leader politico estero si definiscono femministi gli uomini, perché femminista vuol dire pensare che le donne hanno dei diritti e cerchiamo di garantirglieli e di lavorare per anche quello tutti che diceva insieme. Per quello che diceva Luxuria, garantire i diritti di tutti. Diritti di tutti, no? Quindi non soltanto delle femmine, ecco questo, perché questa idea che il femminismo è gli uomini devono essere uguali alle donne, le donne devono essere uguali alle donne, non è assolutamente niente. E l'altra cosa, c'è un altro equivoco, secondo me, quando si parla di figli, di cura dei figli, no? Le donne devono curare i figli, eccetera. Perfetto, partendo anche dal discorso di Risè, può essere, cioè, è ovvio che le donne li fanno, li generano e li devono in una fase iniziale curare i figli. Ma un conto è la cura del figlio, un conto è la cura della casa, cioè ci sono delle azioni che sono assolutamente delegabili a un uomo, no? Perché mettere sull'acqua della pasta o fare altre cose semplici come sistemare, mettere a posto, sistemare i letti, cioè voglio dire proprio cose banalissime, non c'è scritto nel DNA delle donne che devono farlo le donne, no? Per cui anche questa retorica delle donne che devono curare, sì, benissimo, le donne possono essere geneticamente più portate a curare gli anziani, a curare i figli, a fare delle operazioni di dove ci vuole forse un'empatia diversa, ma questo non vuol dire che una donna per questo debba stare reclusa o rinchiusa in una casa. E non è neanche vero che gli uomini non possano occuparsi di questo, che magari è meno gradevole che avere soddisfazioni sul lavoro, no? Appunto, e comunque anche non soltanto la soddisfazione, ma anche proprio un discorso economico che le rende indipendenti a vari livelli, capito? Quindi ci sono tanti equivoci e tanti pregiudizi, ancora tanti stereotipi, che secondo me se poi uno va oltre alla forma, alla parola che si usa, basta un po' di buonsenso e basta capire come si evolve la società, che è molto chiaro, no? Cioè è molto chiaro come quali possono essere, anche senza aspettare sempre l'aiuto, il welfare, lo Stato, che ci deve essere, no? Però voglio dire, siccome siamo in una situazione agire in prima persona, ognuno nella propria vita, per cercare di trovare chiaro, un po' più di equilibrio, un po' più di equità. Caterina Sofici, ci dobbiamo salutare, ringrazio te. Vi saluto e vi ringrazio e auguro buon anno a grazie tutti. Anche a te, a Lorella Zanardo, Alessandra Paunz, Vladimir Luxu, ascoltatrici e ascoltatori, vi ricordo che poi ci sentiamo domani alla stessa ora, 8:10. Ringrazio Alessandro Marco Tulli, alla parte tecnica Carmelo Lauricella, da Roberta Giordano una felice giornata, però domani alle 8:10 vi aspetto.